poi il mio spazio qui ad ora, esattamente dove dovrei stare, illuminato all'ombra dell'attesa di una rivelazione. E intorno vedo i limiti mutare, da ballare e prendersi gioco di me. E dove mai credevo di arrivare, se non sono già più qui. E alle imperfezioni, alle fatalità, alle certezze, alla parola, vieni. Scelgo di abbandonarmi, di puntare le dita verso le costellazioni iscritte a un cielo che mi parli. E per una volta scelgo di abbandonarmi, di imparare da capo la lezione del sorriso e l'arte di meravigliarmi. Sgrano questi passi ad uno, le scarpe strette che sanno la strada, per bussola il mio karma, il mio destino, per traiettoria una festa. Agli imprevisti, alle opportunità, ai cambiamenti, alla parola, credi. Io per una volta scelgo di abbandonarmi, di abbracciare la vita e il suo disegno che prevede il gusto assurdo di bastarmi. Io per una volta scelgo di abbandonarmi, imparare da capo la lezione del sorriso e l'arte di meravigliarmi. Ahora es tiempo de irme, de beberme la vida, bajo una estrella curan mis heridas. Sigo mi lengua se muda a nuevas palabras, antigua ternura. Y yo, que soy gramática impura, que se renueva con dudas, con sexo locura. Las ganas ciegas de hacerme sencilla, soy como chispa que brilla y pone en marcha ese fuego tenaz, que te olvidaste apagando, que te apagaste olvidando, y que requema mi paso.